56. Zuppa di purè di piselli di magro. Piselli freschi sgranati, grammi 400. Prosciutto grasso e magro, grammi 40. Burro, grammi 40. Una cipolla novellina, non più grossa di un uovo. Una piccola carota, un pizzico tra prezzemolo, sedano e qualche foglia di basilico. Tritate fine il prosciutto con un coltello e fate un battuto con questo e con altri ingredienti. Mettetelo al fuoco col burro, poco sale e una presa di pepe. Allorché sarà rosolato, versate l'acqua che giudicherete sufficiente per bagnare la zuppa e quando essa avrà alzato il bollore, gettate giù i piselli per cuocerli insieme con due fette di pane fritte nel burro. Poi passate ogni cosa per istaccio. Ottenuto in questo modo un purè per 6 persone, bagnate col medesimo il pane che avrete già messo in pronto come nel purè di grasso.